io salgo e io uscito, il servo mi lascia un istante, io corro al diretto e bravo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Hey! Thank you. alla posta, attendo alcune lettere dirette a Parigi. Loris, ritorna presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Posso parlar di voi, salgo in biciclo. Ecco, mi cerco, trovo. Eccomi. Siete molto gentile, un fior di cortesia. Amen. Thank you.

che le avevan fatto mia madre e mia fratella. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 come se tu mentissi i miei dubbi ancora che mi do la certezza lui stesso lo dimero ecco la prova leggi anima mia la sua scrittura armato deserta è la prima stanzetta vi ascolto un'onda divisa un'onda di baci Io l'afferro e l'atterro, lascia quella donna, grida il fine, mi rivoglio furibondo, al vedermi armato in salva, sarà al fanco mi ferisce, io rispondo, ma luci. Ella fuggì.